Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora Oscar, sono le 8 e 18 minuti tra qualche secondo. Allora, ben ritrovato. Hai già messo l'inno tedesco del sistema elettorale tedesco che Renzi ha deciso nottetempo di che sarà. Guarda, io ho fatto una battuta, ma invece di importare il sistema elettorale tedesco, perché non importiamo direttamente la Germania in Italia? Così. L'unica leader europea che va da Putin gli dice sul muso: ti comporti con oppositori, gay e minoranze in una maniera intollerabile. Cari critici della Germania, tutti gli altri coda tra le zampe. Guarda, e comprare il gas di zio Putin. Adesso Oscar ci diranno, cioè, ci diranno che siamo antipatriottici. Oh, ma non me ne frega, schifo l'Italia, me andatevene in Germania. Ma guarda, francamente sono abituato, sai quante tonnellate di insulte ricevo dai no euro in cattedra italiani, cioè figurati. Quindi proprio a me fa canon né caldo né freddo. Oh, no, liberales è meglio, cioè, mettiamo la strofa giusta. Però detto tutto questo, bisogna riconoscere alla Putin, tra i tanti difetti che avrà anche lei, che va da Putin, lo dice sul muso: cari piccoli nanetti statisti sedicenti europei che fate finta di non vedere nulla. Hai visto che l'hanno accecato praticamente a Navalny? Naturalmente i soliti ignoti, all'oppositore Navalny, carcerato, liberato, appena liberato, brum, gli hanno spruzzato una roba in faccia per cui l'80% di un occhio non vede più. Questi sono, rimangono sempre ignoti, quelli che fanno queste cose. Che vuoi fare? Questa è la Russia. È la democratica Russia. Ma noi per fortuna siamo un paese placato, perché come vedi al primario del PD il popolo che va forte è quello degli over 65. Quindi su questo c'è una certa garanzia che Renzi durerà a lungo, perché viste le attese di vita e la nostra curva demografica. E a Salerno il record: De Luca ha onorato la cambiale per avere il figlio capolista. Quindi mi pare che il risultato sia trasparente. A me ha colpito molto anche l'intervista di Martina al Corriere della Sera, ripartiamo con umiltà, che mi pare questo sostantivo sia veramente la bandiera della ditta, l'umiltà. Detto questo, torniamo ai santi, ho capito. Un po' ironico. Che mi guardi un po' per traverso, perché ho iniziato un po' troppo con le bollicine. Ho preso a malapena un caffè. Allora, oggi sono due santi importanti, perché sono due apostoli, proprio di quelli diretti dei 12 di Gesù, cioè Filippo e Giacomo Minore. Filippo era già discepolo del Battista e praticamente tra i primissimi a unirsi a Gesù, secondo i Vangeli, e invece Giacomo il Minore era un cugino di Gesù. Sono entrambi le reliquie alla Chiesa dei 12 Apostoli, dei Santi Apostoli a Roma. Però io devo ricordarti che oggi è uno degli oltre 40 Sant'Alessandro, perché Papa Alessandro prima. Non è vero. Papa dal 105 al 115, martire, decapitato al settimo miglio della Nomentana. Quindi sono molto informato su tutti i santi con il tuo nome. Cominciava nel 1968, proprio oggi, il 3 maggio, con gli scontri tra i CRS, cioè tra la gendarmeria, la polizia francese e gli studenti, il maggio francese, cioè cominciava il 68 e poi avremmo nei mesi, anzi nel 69 arriva tutto in Italia, l'autunno caldo e così via, però comincia la storia a cambiare. E nel 1979 però c'è la risposta, perché la Thatcher vince le elezioni e cominceranno 18 anni di governo conservatore. Come abbiamo ricordato ieri, sarà solo 18 anni dopo, nel 97, che poi arriva Tony Blair, che però si troverà il lavoro spianato. Una destra seria in Gran Bretagna, mica come quella italiana. E nel 2002, cari no euro, per voi oggi giorno di lutto, perché nel 2002 l'euro diventa valuta dell'Unione Monetaria. E quello che bisogna fare è anche dare degli auguri oggi. Chi compie gli auguri? Dario Vergassolo, che a me sta simpaticissimo e lo abbraccio a distanza, perché secondo me nella sua comicità surreale e stringata con gli aspetti geniali delle contraddizioni italiane, anche con lo spirito ligure di economia. Vive in un posto bellissimo di fronte al mare, lo invidio molto perché è bravo, Dario Vergassola. E auguri anche a una collega che con me si comporta molto male da anni, però io le voglio bene, quindi faccio gli auguri lo stesso. Metta Merlino, ride a tutti quelli che mi insultano, ai Gasparri che invita tutte le settimane, ride sempre agli insulti, non dice mai nulla, ma io le voglio bene, la perdono, e quindi le mando i miei auguri, cara. La perdono perché è scorretta, far insultare senza dire nulla, ma evidentemente eravamo amici un tempo e quindi avrò sbagliato io, di sicuro ho sbagliato io nella vita, e quindi io le faccio gli auguri e invito tutti a fare gli auguri, perché Mirta è molto seguita, come sai, sulla 7 la mattina, molto brava. Fate la pace, Mirta. Oh, Mirta, no, ci ascolta, aspetta, fate la pace. Sto chiedendo scusa, perché io se un conduttore mi fa insultare così spesso senza dire nulla, avrà le sue ragioni, quindi io sto dicendo brava Mirta, brava, brava. Allora, sono le 8:23, diamo intanto il numero di telefono 800 24 0024. Sicuramente ha colpito la cifra che trovate sui giornali. Il Giorno per esempio mette proprio, vola il conto, la cifra di 600 milioni stiamo parlando per salvare all'Italia, 6 mesi, insomma 6 mesi di salvataggio, no, per questo prestito ponte. No, vuol dire 600 ogni 6 mesi, non so se hai capito. Sì, certo. Cosa vuol dire. Oddio, il commissariamento dura 6 mesi. Protraibile. Niente di più protraibile. Sono 3 i commissari. Come vedi, ci sono commissari. Stefano Paleari, che conosco, è un esperto vero, accademico. Ci ha fatto molti convegni insieme. Tutti quelli che si occupano dei trasporti lo hanno visto negli anni. Quelli sono soggetti scelti mica per le procedure concorsuali. Quelle laghi, il mister 24 incarichi, come giustamente scrive oggi il Corriere della Sera, ne ha 24. Da qualcuno si dimette al commissario Laghi. Ma invece, soprattutto il professor Paleari è messo per fare un piano industriale, anzi il PD gli dice che deve fare un piano industriale e deve fare un altro referendum tra i lavoratori, quindi sono tutte cose che fa un socio permanente. Lo Stato, fa intendere Renzi, è lì per restare, questo è il punto. È chiaro che il progetto è quello di vedere in questi 6 mesi poi che succede, insomma, se trovare una soluzione di mercato, come qualcuno dice. Certo, si registra anche che Etihad molla, il socio al 49%, anche oggi sui giornali si racconta di una situazione da parte anche del numero uno di Etihad di fastidio, proprio si fa trapelare. Beh, Renzi gli ha detto voglio il Qatar, perché che è entrato in Meridiana, aveva anche aperto una base a Firenze, promesso, tanto per far capire che insomma c'è una che ci sono questi. Però se volete potete parlarci anche e chiamarci sulle primarie del Partito Democratico, nel senso che ci sono ovviamente ancora, c'è questa analisi di Ilvo Diamanti che tu già hai accennato, Oscar, sulla questione degli over 65, cioè sono soprattutto gli over 65 anni quelli che si sono portati sono recati alle urne a votare. C'è da dire che è una cosa, insomma, che forse la politica, soprattutto le primarie, appassioni meno i giovani e più quelli di una certa età, è un dato abbastanza costante forse nella storia politica italiana, no? Che siano i più legati alla necessità del voto, il disamoramento al voto c'è soprattutto nelle classi giovanili, non solo, non si può però generare. È comunque un campanello d'allarme se tieni conto che in termini di distribuzione patrimoniale sono gli over 65 che quelli che hanno perso meno, mentre quelli sotto i 35 hanno perso incomparabilmente, no? 60 punti rispetto in 15 anni, ci dice la Banca d'Italia. Se pensi al bilancio complessivo dell'occupazione negli ultimi 2 anni con il Jobs Act e così via, l'occupazione non aggiuntiva, chi ha tenuto l'occupazione erano quelli sopra i 54 anni, chi invece la perdeva erano i giovani, anche se il dato che c'è oggi sui giornalieri, che tu hai ricordato anche prima facendo la segna stampa, è un dato per la prima volta un po' diverso. Però detto tutto questo, tutto torna, ecco, come dire, su questo più vecchi più attivi, come devo dire. Sì, poi io dire, giusto per commentare ancora i giornali, c'è un giudice a Milano, io l'ho detta così, ma penso che anche tu, Oscar, su questo tema, se interpreto pensi allo stesso modo, ieri. E cioè l'archiviazione nei confronti di Marco Cappato, che ha aiutato ad andare in Svizzera DJ Fabo, ricordate la vicenda del suicidio assistito, è stata fatta una richiesta di archiviazione, ecco, poi si dovrà pronunciare un GIP, si pensa, si presume che il GIP confermerà questa richiesta di archiviazione dicendo che c'è una dignità a vivere e una dignità anche quindi a morire, cioè se la vita non è più degna di essere vissuta come era la vita di Di Cefalo. A me, io personalmente, come abbiamo già detto quando ci siamo occupati del caso, mi ha colpito e condivido profondamente la frase: il diritto alla vita va bilanciato con il diritto alla dignità. Sì. Mi colpisce perché io sono fondamentalmente convinto che andrebbe portato quel principio nel nostro ordinamento. Naturalmente sui giornali di oggi hai visto, ci sono interviste di appartenenti alla gerarchia che dicono ma questo principio però è una forzatura rispetto al fatto che non c'è una norma su questo che affermi in questi termini il principio, quindi il magistrato si è anche, per così dire, esposto, si è un po' sporto, come devo dire. Però siccome viviamo in un paese di giustizia evolutiva, talvolta io questa giustizia evolutiva un po' mi colpisce, talvolta mi sembra che colga nel segno. Ovviamente stiamo parlando di una libera interpretazione, però io credo che anche questo costituisca una pietra per quella norma. Sì. C'è minore, non c'è un giudice forse sportivo invece, non so se lo sei visto. È stato squalificato perché in quanto espulso dalla partita sulle Muntari, cioè quel calciatore Domenica Cagliari ha abbandonato il campo prima ha protestato con l'arbitro, ma non protestato per un'azione di gioco, ha detto guardate che mi stanno insultando, tra gli insulti, tra quelli che mi insultano c'è anche un ragazzino, mi insultano perché io ho la pelle nera, caro arbitro. L'arbitro l'ha ammonito, allora lui se n'è andato dal campo e l'arbitro l'ha espulso. Ed è stato squalificato, per cui il paradosso è che viene, come dire, elogiato anche dall'ONU come esempio di virtuoso, di come si deve reagire ai bu razzisti, ed è stato invece squalificato. Ma questo è il nostro calcio italiano. È il calcio... Il calcio che, diciamo, fin dalla prima candidatura d'elezione di Tavecchio fa pensare su temi come questo. Optipo ba, ricordi? Io non voglio evocare le polemiche, però le parole uscite dalla sua bocca. Voglio dire, secondo te qual è la logica che ha portato a questa scelta? Cioè la logica è che logica comunque è stato espulso, in ogni caso devi ottemperare, insomma, sacro rispetto verso chi rappresenta la giustizia sportiva in campo, cioè l'arbitro. Se l'arbitro non fa niente, tu non devi fare nulla. Sì. Già ti sei fatto espellere, quindi ti scarichi. Sì, perché sennò avrebbe sconfessato l'arbitro, l'operato dell'arbitro, ma il referto dell'arbitro. È questo il giudice che mi interessa sportivo. Capire. No, ma è chiaro. Cioè, la federazione non può valutare l'ipotesi di sconfessare l'arbitro sul campo? La mia risposta dovrebbe essere... Questo non lo so dal punto di vista delle norme, del regolamento, risposta, sai che siamo un paese burocratico. La risposta logica dovrebbe essere sì, perché nessuno è perfetto e anche gli arbitri possono compiere valutazioni sbagliate. Quindi, alla mia opinione, è proprio questo che mi colpisce, cioè siccome la giustizia sportiva interviene in una fase successiva rispetto alla valutazione dell'arbitro sul campo, dovrebbe rappresentare appunto un giudizio che... Ma non per criticare l'arbitro, gli esseri umani, ripeto, possono sbagliare da non vedere un fuorigioco ad anche valutare circostanze come quelle che Muntari gli dice. Sono assolutamente d'accordo con te, solo che il giudice sportivo avrebbe dovuto dire il referto dell'arbitro noi non lo consideriamo, e forse, creando un precedente. Ecco, no? Forse però era il caso, ecco, visto il delicato tema. Sicuramente forse era il caso. Sicuramente era il caso in questo. Invece si è preferito non farlo, quindi rimanendo un'interpretazione, diciamo, burocratica. Se l'arbitro ha deciso così, bene così. Esatto. Comunque sentiamo i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800240024. Abbiamo messo tante tematiche sul piatto come al solito e poi ognuno ne prenda quella che vuole e ce la commenti. Gianluigi ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi, grazie della compagnia e forza Milan, già, che devi fare, qualcuno lo deve dire. Qualcuno di questi tempi. Noi siamo tifosi di questo. Io sì. Vabbè, ma anche Giannino è di compagnia, veramente io non lo so se lui vive su un altro mondo, ma quello che dice io lo sposo in pieno. Allora prendiamo i razzi insieme, ma non per la Corea del Nord, va bene. No. Allora vi dicevo questo ragazzi, guardate, io come sapete sono funzionario dell'Italia, ho votato sì, turandovi il naso perché il dolore è tanto, Ma anche non ho nessuna remora contro i colleghi che hanno votato no, perché onestamente chi vive l'operativo, chi nasce dal basso, chi arriva fino a no, io sono arrivato anche all'HCC che sarebbe il cervello dell'aeroporto, e beh, vi posso dire che si spende veramente tanto, e vedere andare via, chiudere tratte senza motivo, aprire Albenga che non serviva a nessuno, aprire Crotone che serviva, lo sappiamo entrambi, Giannino poi se lo ricorda, è questo che fa male, cioè chiudere Pechino alla vigilia degli Olimpiadi, io lo trovo da suicidio, cioè, chiudere Johannesburg che non sapevi dove mettere le mani perché il volo era pieno, facevamo pallet da 2500 kg di bagagli, avevi la gente anche sulle ali, è questo che poi quello che fa male è che fuori viene percepito come chissà quale danno abbiamo fatto all'azienda, cosa cioè che lei dice più strategie manageriali sbagliate, ma l'abbiamo detto le strategie manageriali che è questo quello che voglio dire. A oggi anche i ragazzi che hanno votato sì, come dicevo, sono coscienti di non, come si dice, di averci provato in qualche maniera, ma non hanno nulla a dare addosso a chi ha votato no, perché comunque anche loro si aspettano dei cambiamenti veri, cioè ci sono persone come me che sarebbero disposte anche a mettere la liquidazione con un piano. Ma adesso Gianluigi, questi sei mesi, perché Oscar non crede che siano sei mesi non protraibili, cioè che sarà una situazione un po' italiana. Renzi, poi lo questo è chiaro, lo Stato è ritornato per restare. Vabbè, però adesso non è che decide Renzi. Ecco, io come non decide Renzi? Ragione Giannino, con un forte piano industriale tornare tra le prime compagnie al mondo. Insomma, Oscar però dice, Oscar dice che continueremo a dare soldi anche dopo questi sei mesi, che non ci sarà un piano industriale. Io penso che se non ci fosse un equivoco politico di fondo, e mi dispiace vederlo di nuovo rialimentato da leader politici che non conoscono il business serio, che lei lo sa, è una cosa per specialisti, non si improvvisa, e chi lo improvvisa commette errori, come si vede nella storia dell'Italia. Ma detto questo, io sono convinto che un commissario, uno solo, incaricato di nuovi contatti e di evitare la liquidazione, perché è ovvio che se dici liquidazione nessuno si fa avanti perché preferisce prendere asset a pezzi a costo di liquidazione, no? Ma invece io sono convinto che sia pur a patto di una revisione generale dell'operativo e quindi del profilo della compagnia, una possibilità ci sia, ma la politica da questo orecchio non ci sente. È quello che temiamo noi, perché praticamente negli ultimi vent'anni l'hanno usato come tutte quelle che erano negli anni 80, serbatoi, butti là e poi alla fine, però ecco, vi posso dire questo, che spesso e volentieri la sera non arriviamo a coprire l'operativo perché la gente nell'operativo, cioè quelli che sono sui piazzali, banchi, check-in, non ci arrivi mai. Sì. Perciò c'è qualcosa che non va. Va bene, comunque Gianluigi, ripeto, funzionario d'Italia, grazie per la sua testimonianza. Staremo a vedere ovviamente come si evolve, e i prossimi sei mesi saranno certamente importanti, decisivi per capire se un piano industriale ci sarà di rilancio, se si può mandare sul mercato o se rimarrà come Oscar nel suo pessimismo, perché è il primo a non volere questa cosa. Io non lo voglio, però ti ricordo che dovevano essere 200 milioni di denaro pubblico dati in Invitalia, poi prima notizia del Prestito Ponte 300 milioni, poi diventati in 24 600. ore 400, poi in 72 ore 500, ora siamo a 600, non ve la do per due, non ve la do per tre, avanti, vengi, non si riesce, cioè 600 milioni, 600 milioni. Presto Ponte dato nel 2008 non è mai stato restituito. Ieri Gentiloni dice alla conferenza stampa: Alitalia non è in condizione di tornare all'utile. Non si rende conto il Presidente del Consiglio che ha dato l'argomento sul piatto d'argento all'Unione Europea, perché l'Unione Europea dice: questo prestito di mercato, che cos'è un prestito di mercato? È un prestito che deve avere garanzia di essere restituito e pagato con interessi di mercato. Sì. Come può essere restituito, per di più pagando interessi di mercato, un prestito se è appena finito di dire che all'Italia non è in condizione di fare utile? Cioè, capisci? Però, vabbè, sarà la cosa italiana. Saranno almeno contenti quelli che hanno preso il volo all'Italia, i voli sono garantiti almeno nei prossimi sei mesi. Ma questo, figurati, nessuno vuole mettere a terra. Ma infatti la formula commissariale della nuova legge modificata Parmat è della concordato, ma in continuità, quindi questo non è in discussione. Allora, c'è Cristian, ci chiama da Teramo. Buongiorno Cristian. Buongiorno, grazie per la trasmissione, mi seguo sempre. Grazie. Io ci tenevo a dire due cose. Innanzitutto sono d'accordo con Giannino quando dice che senso ha dare gli aiuti, anche perché nel consiglio di amministrazione tra coloro che sono presenti ci sono anche delle banche, per cui se erano in grado di ripagare l'avrebbero dato direttamente alle banche, insomma. Sa, gli aiuti anche per garantire l'operatività dei voli, per non mettere a terra gli aerei da domani. Ci sono persone che hanno comprato i voli magari per quest'estate, per, creerebbe un casino, mica male, ecco, Cristian. Senz'altro, senz'altro, ma se vuoi mettere un prodotto, un'azienda in liquidazione, sicuramente non la sponsorizzi così con un'azienda a pezzi. Sono d'accordo con Cristian, è così. E poi, tra l'altro, non riesco a credere che non si è riuscito a trovare un accordo. Cioè, ok, il consiglio di amministrazione ha fatto degli errori, il management non è stato capace, ma cavolo, cioè, ma che sindacato abbiamo in Italia? Il sindacato ha appoggiato il sì, ed è stato la maggior parte dei sindacati ed è stata sconfessato. Ha appoggiato il sì. Hai visto che la Comus aveva votato sì, poi ha detto hanno ragione chi ha votato no. E allora capisci che c'è qualcosa che non torna. La UIL aveva detto sì, e poi si è scoperto che nel personale di volo diceva libertà di coscienza. La CISL ha detto è stato un errore dare ai lavoratori la possibilità di votare. La Furlan ha ammesso è un grave errore, dobbiamo riflettere. Gli altri due, diciamo, hanno detto una cosa e poi dicono che ha ragione chi ha fatto l'opposto, quindi vuol dire come la CGIL in Almaviva, perché la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma, che ricostruisce per la prima volta i 1066 licenziati a Roma, si devono al comportamento della CGIL. Non c'è mai stata una sentenza con un giudice che scriva è inutile che mi fate l'impugnativa, voi vi siete comportati in un modo per cui l'azienda vi aveva avvisati. Allora c'è un problema dei sindacati, io non voglio colpevolizzare, però c'è un problema, è oggettivo, perché se un leader sindacale firma un'intesa e poi dice che ha ragione chi vota, chi la respinge, capisci che per le aziende è un po' difficile capire con chi tratto. Mi sembra che si sia anche verificato in questo caso, questo problema si sia toccato con mano. Comunque andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo. Il numero di telefono è solito 800 24 00 24. 24 mattino, attenti a noi due. Siamo qui alle 8 e 40 minuti, oggi tanti argomenti e spazio agli ascoltatori, caro Oscar. Sì, ma io ero pure curioso, cari romani, di sapere come l'ha pensata il fatto che della nuvola di Fuxa se ne sono reso conto, 2 metri di errore di marciapiede di strada solo dopo averla fatta, ma vi rendete conto, vi rendete conto? Beh, il primo è stato Fuxa a dire, ma che tragedia, che... Beh, tanto credo che l'ha preso dai giornali, tra l'altro. L'ha preso dai giornali. Spero per lui che la parcella, anche l'auto, sia stata comunque incassata. Per la nuvola di Fuxas, no? un lavoro l'avrà fatto. No? Non toccare punti dolenti, costi della nuvola di Fuxas. È fantastico. Cioè, tanti anni di ritardo, eccetera, eccetera. Ma una volta finita dice: ma c'è un buco tra l'opera, il marciapiede, ma come il viale finisce in mezzo alla carreggiata, agli alberi, cioè, delle cose, ragazzi, c'è solo in Italia. Non voglio parlare mai del nostro paese. No, ma ci sono delle vicende, stiamo facendo ci sono delle vicende nelle quali uno dice: vabbè, ma neanche tutti i santi del paradiso, se vengono un giorno insieme, forse ci salvano. Però abbiamo fiducia, non vi preoccupate. C'è Sergio che ci chiama da Salerno. Buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per la compagnia. Il cuore, la percentuale più elevata dei filorenziani portati in parata a votare da De Luca. Ma sono percentuali che, come si può facilmente immaginare, sono drogate dal potere, quindi voglio dire... Adesso non critichiamo in assenza. Quando arriva l'85, sono figlie del successo del buon governo. Ma perché? Ma io vorrei sapere una cosa, ma se uno non va a votare alle primarie a Salerno, che gli succede? Cioè, gli arriva a casa un controllo fiscale? Ma non credo, leggono la lista all'Ira TV. Perché? È il contrario, è perché si va a votare, perché si deve andare a votare, non perché non si va. Comunque io l'ho chiamata per la questione di montare del giocatore. Allora, premesso che i bu sono una cosa cretina, sono idioti, insomma, però quello che vorrevo dire, se è vero che il labiale, che ieri sera c'hanno alcune televisioni ci hanno descritto, faceva dire a montare vicino all'arbitro, se non fossi stato un arbitro saresti sottoterra, perché anche questo è stato detto. Sì, può essere, non ho visto il labiale, ma se non si carica troppo di significato questi bu. Nel Cagliari giocano giocatori di colore, allora che cosa fanno i giocatori di colore quando giocano nel Cagliari? Vengono applauditi, allora i tifosi del Cagliari non sono più razzisti, lo sono solo nei confronti di Muntari. Io credo che esista. No, no, aspetti, no, questa è una, però, una dinamica che chi segue il calcio è abbastanza diffusa. Io lo seguo da quando ero bambino. Lo so, quindi... però ci sono curve che applicano, tra virgolette, il codice critica nero e battute di qualunque tipo, esatto, striscioni o cose, cioè, eccetera. Che non... Solo quelli degli avversari. No, ma io non dico che non lo fanno, assolutamente. Dico soltanto che lo si carica di significati un poco troppo lo so, esagerati. Però se mai si smette, lo sa come ha fatto la Thatcher a risolvere il problema in Gran Bretagna, no? Di qualunque tipo di violenza fisica, diciamo, le ha sbattuti fuori. Anche se devi morire quando un giocatore sta a terra non si dovrebbe capisce dire, però esempio. Ecco, lei ha fatto proprio l'esempio, Sergio, sa, devi morire è una cosa brutta, ovviamente, nessuno dice che è giusto e legittimato insultare una persona, sarebbe un mondo perfetto in cui nessuno dice niente, però ci sarà una bella differenza tra insultare una persona per il colore della pelle questo, o no? Perché, che ne so, è un avversario e gli si dice vai al diavolo, ovviamente in termini e diversi. E Sergio, comunque, no? Lei fa bene a fare questa osservazione, ma ragioniamoci un secondo sopra. È importante sopra. Sottolineare allora, che c'è una cioè, differenza. La giustizia sportiva a quel punto ha il referto in cui, per ipotesi, no, ma se ha visto il labiale, io non l'avevo visto, ma comunque fa benissimo a dirlo. Allora, la giustizia sportiva legge il referto, l'arbitro dice, mi ha detto anche dovresti stare sottoterra. E io capisco che a quel punto la giustizia che sportiva... è una reazione di rabbia... motivi così... Ma questo non significa non prendere provvedimenti verso la curva. Non so se è chiaro, perché così invece è solo lui lo squalifica. Sulla curva c'è una cosa, anche questa un po' ipocrita del calcio, però io la posso anche capire. Siccome erano 10 persone, cioè siccome meno dell'1% allora dei tifosi, sanzioniamo tutti. Non possiamo dare la responsabilità oggettiva alla società. O su questo si può discutere, forse un pizzico di ragione c'è, nel senso che uno non è che se ci sono 30.000 persone può controllare e può essere responsabile di tutto quello che fa anche una singola persona o 3 persone o 10 persone. Comunque, insomma, Sergio ci ha detto la sua, la ringraziamo. Sergio, andiamo a Bari da Pachi, leggo bene, Pasquale, insomma, Pasquale, ma come la dobbiamo chiamare? Buongiorno. Pasquale. Pachi, come volete, ormai Pachi. Sono anni che mi chiamano Pachi. Lei è Pachi, vabbè. E io sono Pachi. Beh, allora, Bari, vorrei dire tante cose, ma molto sinteticamente. Uno, hanno fatto un referendum all'Italia e ai lavoratori per, non so, approvare o meno il progetto, eccetera, eccetera. Una domanda, perché il cittadino italiano non può fare un referendum, perché non pongono il quesito anche alla cittadinanza italiana? Volete che questa compagnia rimanga, così come anche il salvataggio delle banche, visto che noi cittadini dovremmo essere coinvolti in prima persona, perché non danno la parola anche Pachi, a noi? Lo sa, cioè, il referendum è bella solo domanda, abrogativo sulle leggi, esatto. Si può abrogare delle leggi adesso, però certo, perché la politica non chiede mai al suo serbatoio di denaro coatto con noi contributi al suo datore di lavoro, lo so, è così, al suo datore di lavoro. Poi, poi sa che critica arriverebbe, Pachi, ma cosa ne sa la gente comune, certo, di decidere o meno su Alitalia oppure no? Ecco dove dovrebbe entrare in funzione il servizio pubblico, che non dovrebbe essere di natura commerciale, dovrebbe spiegare la cittadinanza, perché questo fa il servizio pubblico, vedici BBC, perché sono molto amante della BBC, bravo, che non prende una, esatto, linea. I canoni e di servizio possesso devo pagare un canone di cui neanche arrivo alle discezioni di trasmissioni per pagare costoro, non so, tenere ancora in piedi delle lobby anni 70 di trasmissioni che non hanno alcun contenuto culturale. Non è chiaro, ma questa è la sua posizione. Io sarò controcorrente, Oscar, ma penso che si vada a votare, certo, poi si può discutere il fatto che non scegliamo, non ci scegliamo la nostra classe dirigente politica. Io vado a votare anche per delegare alle persone che sono in Parlamento di fare le cose. Non è che posso scegliere un giorno devo votare su Alitalia, poi su Almaviva deve vivere o no, le Olimpiadi le dobbiamo fare o no, il ponte lo dobbiamo fare o no, la TAV dobbiamo farlo o no, cioè vivremmo in un clima di referendum perenne, no? Sì, però il problema è sono delegati la rappresentanza a decidere, no? Si esercita con discrezionalità assoluta, perché la politica cambia idea e fa il contrario di quello che dice ogni questo, due per tre, sì, questo è il punto. Quindi, però non so se la soluzione è andare a votare su tutto, perché su tutto poi bisogna andare a votare. Però adesso è all'Italia, ma tra un mese decideremo su un'altra cosa. No, ma era un paradosso quello che secondo me citava il nostro ascoltatore, diceva perché non veniamo mai coinvolti, i contribuenti siamo noi, però del resto sai, viviamo in uno stato nel quale, ricordiamoci tutti questa cosa, quando io vado in in credito e lo Stato, il fiscale, lo Stato non mi rimborsa, lo Stato mi paga solo il 2% di interesse. I primi sei mesi non riconosce nemmeno che è in ritardo. Dopo mi paga il 2%. Se io sono in ritardo nel pagare, io devo pagare il 3,5%. Ecco, questa differenza, banalità, è un tasso di interesse per la stessa ragione. Chi è in ritardo nel pagamento verso chi, ti dà l'idea di chi ha il bastone nella parte del manico, cioè lo Stato che si scrive le regole a proprio vantaggio. Quindi lo Stato decide, non eravamo più azionisti pubblici, avevamo detto che non si nazionalizza. Sì, dice così, poi fa il contrario. E perché? Ma lo sappiamo tutti, perché sotto elezioni non bisogna dare l'idea che comunque la politica, l'Italia, i 12.000 dipendenti, ed è questo il motivo per cui in Italia sono sempre rifatti gli stessi errori, eh? Sempre, sì. Sempre. C'è Paolo, ci chiama da Napoli, buongiorno Paolo. Buongiorno, siete due grandi, siete i miei idoli, io vengo ogni mattina a lezione da voi, quindi volevo soltanto dire questa piccola cosa. Grazie. Captazio benevolenza. Adesso... No, dica Paolo. Pure. No, voglio dire che domenica il Fogli, i tifosi, non voglio neanche citare la squadra, io sono un tifoso del Napoli, un amante dello sport, pensate sì. Che stasera io ti farò per la Juve perché è una squadra italiana, quindi io amo lo sport. Corretto. Ma... Pensate. Oh, come che... corretto? Perché? Perché? Perché il Monaco è così brutto? No, Monaco ha grandissimi attaccanti. Ah, era una battuta. Anzi, ieri Cristiano Ronaldo ci ha levato la parola perché cazzo quel 3-0 di ieri sera, l'Atletico distrutto così, non me lo aspettavo. Vabbè, comunque, ma io ti farò per lo sport, per Buffon che è italiano, per Bonucci, per Chiellini, io amo lo sport. Beh, poi volevo benissimo. Dire questo, non per Higuain, però giusto un particolare. vabbè, ma questo ci può arrivare tutto, capisco tutto, ma tutto è qua in no. Vabbè. Io posso dire una cosa, io tutte le domeniche, e non proprio tutte, però mi sento offeso quando inneggiano al Vesuvio. Questa qui per me non è solo discriminazione, certo. Questo qui per me è razzismo. Pensate, non voglio dire neanche quali tifosi hanno cantato. Che bello è quando erutta il Vesuvio, ma un po' tutti, scende un tutta po' tutti. La lava, scompare la Campania. Io da napoletano, io ho un fratello piccolino, ma io cosa gli devo spiegare a mio fratello? Quindi, per favore, un pochettino... Diamo una mano a far scomparire anche questo. Prima dicevate della Thatcher. Però Paolo, sì. non è che questo elude il problema Muntari, se è il caso Muntari. Cioè, voglio dire, ci sbatte in faccia un'altra cosa che non si fa. Ecco. Anzi, Paolo, ragazzi, perché mi dai l'occasione per ripetere, che siccome da anni c'è chi, interpolando un video, ha una risposta nella quale dicevo, nella storia di fronte alle grandi tragedie Napoli ha tirato fuori sempre il meglio di sé, mi ha fatto dire come se fossi anch'io un invocatore del Vesuvio Sterminatore, è l'esatto posto, hai ragione, approfitto di questo per ricordarlo a chi invece continua a fare opera di falsificazione dovuta all'odio, non me ne importa nulla, ma ci tengo a dire che non ho mai pensato a stupidaggini di questo tipo, anche perché lo sottolineo e richiamo, mia madre è napoletana, quindi. Comunque, grazie Paolo, andiamo a ti ho Modena. Visto iperreattivo sulla Juve, su Higuain. No, sulla Juventus hai detto prima una cosa. Ma la Juventus cosa dobbiamo fare? È l'anno del triplete, complimenti però, insomma, è stato un anno prima entusiasmante, la perché il triplete è un anno da ricordare, quindi complimentoni alla Juve, davvero, peccato per me perché insomma, Marco da Modena, Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Marco. Volevo intervenire sulla questione dell'Alitalia perché forse ho una visione semplicistica del problema, ma un'azienda che non produce utili non merita di stare sul mercato. Sembra banale questa cosa, invece è rivoluzionaria, o Marco. Merita di andare sul mercato. Siamo se qualcuno... in minoranza, ma la pensiamo così, però siamo in minoranza. Perché il problema però è che questa roba non vale per tutti gli altri. Non vale per tutti gli altri, perché gli altri chiudono. E invece quando la politica dice no, tu non chiudi. Ah, ecco. Ragazzi, io ho visto tante piccole e medie aziende in Emilia, bellissime, chiudere. E nessuno ha detto niente. E la gente è finita sul marciapiede. Di che stiamo parlando? Sì, oppure che vada sul mercato e se qualcuno è in grado di fare un piano per risanarla, viva, cioè, insomma, come tutte le aziende. Vediamo se... No, insomma, Marco, lei giustamente dice perché all'Italia... Candidiamo il Sole 24 Ore a un prestito ponte, vedrai le reazioni. C'è Roberto, grazie Marco ovviamente da Modena, è un'analisi, come dire, lineare ma neanche tanto peregrina quella che ci ha fatto. Roberto da Milano, buongiorno Roberto. Sì, buongiorno, io mi ricollego alla telefonata... All'ultima telefonata, nel senso che io provocatoriamente devo dire che a me, sinceramente, la vicenda d'Italia non me ne può fregare niente, laddove non frega niente a nessuno di tutte quelle altre aziende, comprese quelle che sono andate via per i mancati pagamenti della PA, che se andiamo a fare i conti hanno un numero di dipendenti ben superiore a quello dell'Italia, quindi non la mettiamo sulla questione dei dipendenti. Caro Roberto, che rimangono a piedi. Come hai ragione, invece nel decreto abbassano il tetto da 15.000 euro a 5.000 euro del mio credito IVA per compensare. Oscar, però che c'è, capisci, diventa lo Stato sempre, cosa fa? Diventa sempre una battaglia tra persone in difficoltà, cioè, perché Roberto... ho capito, però le asimmetrie, quelle che richiama Roberto, sono il dato di fondo. Aspetta Roberto, c'è ancora una cosa. Vorrei far rilevare l'ultima cosa, un problema endemico proprio di tutte le aziende collegate alla pubblica amministrazione, ma anche non, sono i mancati pagamenti. Nessuno, e che mettono in ginocchio le aziende, che molto spesso hanno bilanci che vanno bene contabilmente, ma in termini di liquidità sono morte. Ora, nessuno agisce con prestiti ponte, con un merito creditizio migliorato, perché io oggi vado in banca, ho dei rating che non si capisce nemmeno da dove nascano, nessuno mi dice come fanno a etichettarmi in una maniera nonostante i miei bilanci, non si capisce come io imprenditore possa migliorare. Quindi a me sinceramente non me ne frega niente. Non me ne frega niente. Devo dire che poi insomma ci sono i lavoratori, però se si fa il referendum, il partito, diciamo, non Giannino, il partito di chi la pensa così stravince, è proprio per questo, loro lo sanno. Quindi guarda Renzi, fatti bene i conti elettoralmente, perché secondo me il calcolo di farlo elettoralmente può essere che ti porti qualche sorpresa. Ce la facciamo, Aldo da Brescia, se è conciso, sì, per favore. Aldo, abbiamo 30 secondi. Benissimo, diciamo questo, ogni volta parliamo di tutelare le persone di colore, anche come è successo con Montari, eccetera, eccetera. Allora perché non tuteliamo giustamente campani, toscani, lombardi? Perché ogni volta si parla... Ma infatti chi dice di non tutelarle? Ma chi? Facciamo regole per discriminare. Quindi o siamo tutti uguali o non siamo. Ma infatti uguali. Siamo tutti uguali, cioè perché? Perché, cioè, allora, perché allora il razzismo non... contro i bresciani mica va bene. Insomma, allora. Appunto, giustamente, partiamo facendo un lavoro sulla cultura. Perché io vedo, per esempio, io vengo dallo sport che è rugby, io non ho mai visto una tifoseria. È vero, ma infatti sono diverse tradizioni, purtroppo nel calcio, però queste tradizioni si fanno anche con le sanzioni sportive. Se purtroppo uno non nel calcio, il calcio è un catalizzatore, a volte se le utilizza detto, male, del peggio, del peggio. Se le utilizza male le sanzioni e dà un cattivo esempio, secondo me. Però vabbè, detto comunque tutto questo, il razzismo è sbagliato contro i bresciani, contro i neri, contro i cinesi, contro i torinisti, contro i milanisti. No, devi mettere pure contro gli juventini a quel punto, perché sennò l'elenco non è completo, caro mio. L'anno del triplete, guardate, straordinario. Stasera tifa con la bandiera bianconera. Un'emozione che io non proverò mai, il triplete. Dai, mandaci la foto sui social della che mentre impugni il vessillo bianconero. A domani.